che non ce la fa, si è affacciato solamente per guardare la città. Meravigliosa, indifferente, come una regina sta, vede scivolar la gente dai parapetti e sotto ai tram. Roma, ti ricordi i miei giorni noiosi? Che bohème, con una scarpa e una ciabatta batteva il ritmo della fiacca. E tu ti atti quanto sei bella, lo so già da me. Sembrava che ti rispondesse sussurrando il ponentino, o era il vino dei castelli, chissà. Il sole lentamente muore dietro la città, regala effetti Technicolor, una musichetta jazz suona da una stanza al primo piano in fondo a un vicolo. Qualcuno al pianoforte sta provando questo swing alla Noantri, che lo fanno quasi tutti, non le senti più le canzoni che hanno scritto i visionari a Ponte Sisto, neanche questa che è finita ormai.